Con Gianluca Riggi del Teatro Furio Camillo per parlare della rassegna di teatro civile Sono morto tre volte. Gianluca, ben trovato. E ben trovate anche a te, anche a tutti gli ascoltatori. Gianluca, raccontaci un po' di questa rassegna, questa 3 giorni. Sono 3 giorni che abbiamo deciso di dedicare diciamo, al teatro civile in occasione dei 40 anni del rapimento e della morte di Aldo Moro. E quindi abbiamo 3 spettacoli. Che anche se non parlano tutti e tre espressamente di Aldo Moro, in realtà poi, come dire, raccontano un pezzo della storia di questo nostro paese tra il 1978 e il 1992. Abbiamo uno spettacolo dedicato alla morte di Borsellino nel 92, poi lo spettacolo L'Assoluzione, che invece è dedicato ad Andreotti, quindi alla sua vicenda politica giudiziaria, che comprende in larga parte anche tutta la vicenda Moro, per rapimento, l'uccisione e poi soprattutto anche tutto quello che ne è scaturito dopo, con la morte di Mino Pecorelli, la banda della Magliana e quant'altro. E poi invece uno spettacolo di teatro Prisma, Chi ha paura di Aldo Moro, che invece parla espressamente della vicenda di Aldo Moro. Sono 3 spettacoli che si alternano, ogni sera ce ne sono due da poter vedere, insomma. Senti, come mai questo periodo che va dal rapimento fino al 92? Perché il 78 e il 92, in un certo senso, sono i due reali colpi di Stato che ci sono stati in Italia. Prima c'erano stati semplicemente dei tentativi o delle minacce di colpo di Stato che poi, insomma, si erano fermate magari sulla Salaria con le guardie forestali nel 1970, insomma, cose abbastanza ridicole. Invece poi nel 78, con il rapimento di Moro, si realizza un progetto che da parte di chi lo compie è rivoluzionario, il suo effetto invece è estremamente reazionario, insomma, e lo viviamo tuttora in larga parte. E l'altro grande colpo di Stato sono gli eventi che vanno dal maggio del 1992, con la morte di Falcone, al 19 luglio, sempre del 1992, in cui viene ucciso Borsellino, in cui praticamente tutta l'azione del rapporto tra Stato e mafia viene messo in un certo senso a tacere, anche se poi la sentenza di poche settimane fa ha fatto riemergere alcuni lati oscuri e ha cercato di mettere, insomma, dei puntini su delle i, insomma, ha cercato. Quindi sono i due. Nell'arco di 14 anni, in realtà, sono i 14 anni che cambiano radicalmente l'Italia e anche le prospettive che l'Italia poi ha avuto, no? È nata Forza Italia, è nato Berlusconi e poi tutto quello che ne consegue anche fino a oggi. È una conseguenza proprio di quel decennio. Gianluca, i pregi di questi lavori? Sì. I pregi? I pregi è il tentativo attraverso, come dire, la ricerca storica e anche la ricerca giuridica, cioè l'esame di quelle che sono state le sentenze passate in giudicato, le indagini di magistrati dopo tutti questi eventi e tutto quello che ne è conseguito, cercare di comporre dei puzzle, no? Perché spesso poi noi ci affidiamo troppo, come dire, alla verità giuridica, cioè a ciò che viene stabilito dalle sentenze, ma ci dimentichiamo che spesso i giudici non possono coprire come dire, la storia con la S maiuscola, cioè loro in base ai fatti che gli vengono posti davanti devono poi stabilire se c'è un reato e se quel reato è punibile e stabilire come dire, la punizione. La storia è un'altra cosa, la storia è anche fare riferimento a quello che è avvenuto dal punto di vista giuridico, ma è anche cercare di fare delle connessioni logiche che al giudice non spettano. E in tutta la vicenda italiana spesso è mancato il ruolo dell'interlocutore intellettuali, degli uomini di teatro, e di tant'altri che avevano il potere e la possibilità di mettere insieme i pezzi e costruire un puzzle un po' più ampio, anche a volte sbagliando, però se si sbaglia in buona fede poi comunque ci si avvicina sicuramente alla verità storica molto di più che non cercando di fare nulla. Gianluca, ci parli anche un po' dell'esperienza Furio Camillo, visto che per il blog è la prima volta che ci sentiamo su questa realtà? Il Furio Camillo è uno spazio, diciamo, ormai storico del teatro romano. Nasce a metà degli anni Ottanta, nell'85-86, costruito proprio da Marcello Sambati, che lo gestisce per una decina d'anni, 10-12 anni, poi ha passato la mano all'Archimandrita, che era un'associazione culturale mia e di Andrea Felici, e che ha cercato dal 98 in poi di costruire dei percorsi di teatro di ricerca, di sperimentazione, di apertura, insomma, alle nuove compagnie, ai nuovi generi e così via. Poi nel 2011-2012, anche con il cambiamento proprio radicale del mondo della cultura, di tutto ciò che è stato anche proprio la logica dei finanziamenti in Italia e così via, il Furio Camillo ha cambiato pelle un'altra volta e si è dato molto di più alla formazione, a cercare, insomma, di costruire una nuova visuale di linguaggio attraverso il teatro fisico, attraverso l'acrobatica, il circo, però senza mai perdere dei momenti all'interno della stagione di teatro civile dedicato, non so, al teatro femminile, cioè al teatro fatto da donne, per donne, con donne, oppure in questo caso al teatro civile, quindi teatro politico e civile, con questa piccola rassegna che cerchiamo di dare vita. Tornando alla rassegna, il titolo? Sono morto tre volte? Sono morto tre volte, perché lo dice in una delle sue ultime lettere, quando lo dice Aldo Moro, lo scrive alla moglie nell'ultima, non la penultima lettera, in cui lancia anche un po' la sua condanna contro la Democrazia Cristiana e contro chi in quel momento sta gestendo la Democrazia Cristiana, cioè Andreotti, Cossiga e lo stesso Zaccherini. Allora, ricordiamo questa rassegna al Teatro Furio Camillo dall'11 al 13 maggio. Gianluca, un abbraccio, a risentirci presto. Ci sentiamo presto e speriamo di averti tra gli spettatori. Ciao, caro. Grazie, ciao.